9 in punto. Buongiorno, buongiorno a quanti ci ascoltano. Oggi martedì 14 agosto, buon Ferragosto a tutti, ma ci risentiremo anche domani. Oggi parliamo di social network, parliamo di Facebook, di Twitter, delle altre diavolerie, come dicevo all'inizio, che sono state inventate grazie all'informatica, alle telecomunicazioni, ai nuovi computer, ai nuovi tablet, agli iPhone, a tutte queste altre, questi altri strumenti di comunicazione che ci permettono in qualunque parte del mondo di essere collegati, di essere connessi. Siamo nel mondo della connessione. Chi non è connesso, che non appare, non è, o almeno così dicono di essere. Ma questi nuovi strumenti, queste nuove realtà, quale efficienza, quale efficacia hanno? Sono una meteora, qualcosa di cui adesso va molto di moda. Chi non è su Facebook, chi vuole può comunque entrare nella mia pagina di Facebook, Gianfranco Fabi. Ecco, ma come sarà il futuro? Come dobbiamo approcciare questi strumenti? Quali sono i rischi? I rischi, per esempio, sul fronte educativo per i giovani. Come avvicinare i giovani all'informatica e a queste nuove modalità di comunicazione? Di questo parleremo oggi. Parleremo con chi segue da vicino l'evoluzione di questa realtà dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista sociale. Saluto Enrico Pagliarini. Buongiorno. Buongiorno. Voce di Radio 24, conduttore di 2024. Ecco, 2024 era un programma che, quando è stato ideato, sembrava del futuro lontano. Ormai ci siamo. Ormai ci siamo. Ormai siamo arrivati al capolinea. Allora, nel 2024 chiudiamo. La prima domanda. Cambiamo nome. Nel 2024 ci sarà ancora Facebook, Enrico? Chi lo sa, eh? Uno dei grandi dibattiti tra gli esperti è: Facebook mangerà i prossimi panettoni? Probabilmente il prossimo sì. Allora, di fronte a questa incapacità di guardare al futuro da parte di Pagliarini, guardiamo al presente. Saluto Luca Conti. Buongiorno Luca Conti. Buongiorno. Consulente in social media, blogger, giornalista, autore del libro Fare Business con Facebook, e ci dirà come fare business. E saluto anche Luca De Biase. Buongiorno Luca. Buongiorno. Luca De Biase è editorialista del Sole 24 Ore, editor di Nova 24, responsabile di La Vita Nuova, un'app su che si può appunto avere a cui essere collegati tramite i nuovi iPad. E saluto anche Luigi Ballerini. Buongiorno Ballerini. Buongiorno. Psicanalista, autore del libro E adesso cosa faccio? Ripensare al rapporto tra genitori e figli. Il tema dell'educazione, ve l'ho già accennato, è un tema molto importante nel guardare appunto a questi nuovi strumenti. E vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per intervenire con domande ai nostri ospiti, ma anche con critiche alla nostra trasmissione. È il 349 238 6666, il nostro numero per i messaggi SMS. Sono normalmente molti, normalmente più di critiche che di consensi, ma di questo è fatto anche la vita quotidiana, e dobbiamo imparare anche dai nostri errori, dai nostri sbagli, da quanto facciamo nella vita quotidiana, per poter cercare di migliorare, di avere una vita migliore, una migliore qualità della vita. Enrico Pagliarini, allora, Facebook migliora la qualità della vita? Beh, sicuramente per molti sì, per molti ragazzini, per molti giovani decisamente sì, anche per molte persone che magari non avevano grandi passatempo al lavoro, hanno migliorato alcuni momenti della vita della giornata. Spieghiamo in due parole a una persona che non sapesse nulla che cos'è Facebook. Allora, potremmo dire che Facebook è un luogo di ritrovo per persone che sono collegate in rete su internet, dove ci si possono scambiare messaggi, ci si possono scambiare fotografie, ci si possono scambiare video, brani musicali. Ci si ritrova in rete, si accetta l'amicizia, probabilmente avrete sentito dire questa cosa. Io, ad esempio, non so, dovrei andare a controllare, non so se io e Gianfranco Fabi siamo amici su Facebook, però uno può chiedere l'amicizia, io posso chiedere la tua amicizia, ci colleghiamo in rete, io divento parte del tuo network. Dopodiché possiamo scambiarci messaggi e io vedo anche i messaggi che i tuoi amici mettono sulla tua pagina. E potremmo anche dire, giusto per farci capire da chi non, non usa questi mezzi nuovi, una specie di grande circolo, un bar che si ritrova in rete, ecco, dove ci si scambiano messaggi. Tutto attraverso il computer, tutto attraverso sì, i tablet, ma non solo, ma non solo, è in forte crescita anche l'accesso da telefonino, quindi l'accesso mobile. Pensa che su Facebook, dati di qualche settimana fa, in crescita, circa 10 milioni di persone ogni giorno solo dall'Italia si collegano a Facebook da smartphone, da telefonino. Quindi lo fanno mentre sono a passeggio, mentre sono in metropolitana, mentre sono sull'autobus, ecco, mentre sono in spiaggia. Diciamo, per parlare alla propria comunità di amici si va su Facebook invece di fare 10 telefonate. Potremmo, certo, questo potrebbe essere un'alternativa, oppure invece di incontrarsi al bar, uno si può incontrare in questo luogo virtuale anche se si trova a decine di chilometri, centinaia, migliaia di chilometri, magari è in vacanze, vuole parlare col proprio amico, oppure far vedere la foto di un castello di sabbia che hanno fatto sulla spiaggia. Ecco, abbiamo parlato di Facebook, ma per Pagliarini non c'è solo Facebook. Sì, non c'è solo Facebook. Allora, mettiamo nella lista dei social network, ad esempio, Twitter, di cui si parla molto, LinkedIn, che è un vecchio social network, non è nuovissimo, ma è un social network dedicato, Google Plus, eccetera, eccetera. Però i dati ci dimostrano che di fatto il social network, cioè il punto di ritrovo di milioni di italiani, e parliamo, pensate, di 22, direi anche qualche cosa di più, perché questi sono dati di qualche settimana fa e i social network sono ancora in una fase di crescita, parliamo di 22 milioni di iscritti solo in Italia, 900 milioni in tutto il mondo. Online ogni giorno su Facebook di questi 22 milioni di iscritti ci sono grosso modo 14 milioni, quindi stiamo parlando di una cosa che ha numeri televisivi, però... Quindi un italiano su tre ogni giorno va su Facebook. Sì, sì, secondo questi dati, che sono comunque dati attendibili, sì. Però vorrei solo dire che, proprio confermando quello che dicevo prima, cioè del fatto che Facebook è il social network, dopodiché dobbiamo metterci a discutere sulla presenza online degli italiani sui dati social network. Twitter, di cui si parla molto, ha in Italia grosso modo 4 milioni di iscritti. Di questi 4 milioni, online ogni giorno ce ne sono una frazione. Quindi stiamo parlando di un fenomeno di cui si parla molto perché i giornalisti sono su Twitter. Ecco, ma c'è una differenza forse forte tra Facebook e Twitter? Sì, sì, diciamo, ogni social network ha una propria modalità, una propria caratteristica. Ci sono social network che sono anche dedicati ad un particolare tema, oppure ad una particolare passione delle persone. Ci sono ad esempio social network dove ci si scambiano fotografie. Su Twitter ci sono dei brevi messaggi, io posso seguire le persone che ritengo interessanti e posso seguire i messaggi che loro, ecco, lanciano in rete. Un ascoltatore che ci accusa di essere Apple maniaci, nel senso, no, parliamo solo di Apple. Abbiamo citato Apple. Ho citato io da Apple. Tra l'altro, giusto per non essere Apple maniaci, diciamo che Apple ci ha provato ad avere un proprio social network all'interno di iTunes, ma fino adesso direi che è stato un mezzo fallimento. Comunque Facebook e Twitter si può aggregare, si possono raggiungere anche attraverso altri sistemi, non solo attraverso i sistemi di Apple, attraverso un computer che normale, sia basato su Windows o basato su sistemi Apple, va su internet e di conseguenza si va su un social network. Tanto per non far nomi, un computer Samsung con una piattaforma Android può comunque raggiungere. Sicuramente. Quindi non c'è nessuna... Non siamo servi di Apple, no. Anche se indubbiamente... Ma diciamo che i social network non c'entrano nulla con Apple. Infatti. Allora, Luca De Biase, vediamo se Luca De Biase può rispondere alla domanda a cui non ha risposto Enrico Pagliarini. Ma Facebook è una meteora oppure è qualcosa che si consoliderà e diventerà una realtà, diciamo, quotidiana nel mondo del tempo libero, ma anche nel mondo del business, anche nel mondo appunto dei rapporti sociali, del mondo dell'informazione. Come vedi il futuro di Facebook, Luca De Biase? Salve a tutti. Beh, Pagliarini non è che abbia torto nel non avere risposto, perché Facebook in fondo non esisteva prima del 2004 e non era un granché prima del 2008, adesso è un gigante. Secondo me quello che noi possiamo dire con una certa certezza è che non ci sarà un futuro senza social network, che poi sia effettivamente la piattaforma di Facebook o qualche altra piattaforma a restare, a resistere, questo è un altro discorso, perché l'innovazione è molto grande e ogni volta che si crea una nuova opportunità di usare la rete in maniera tale che la gente la adotta massicciamente, si formano dei nuovi problemi. E questi nuovi problemi sono opportunità per ulteriori innovazioni. I problemi di Facebook sono molto dibattuti e vorrei giusto citarli, se poi nella discussione approfondiremo lo deciderà Gianfranco, ma il tema della privacy è un tema che ha costantemente accompagnato lo sviluppo di Facebook. Non c'è sicurezza sulla effettiva privacy di quello che le persone si scambiano in rete. Un altro tema molto grosso è che lo scambio di informazioni all'interno di Facebook tende a essere all'interno di bolle di persone simili, di persone che hanno gli stessi valori, gli stessi curiosità, le stesse dinamiche, gli stessi meccanismi di reazione, molto veloci e poco approfonditi. C'è chi dice, come Eddie Paris, che questo sia una riduzione delle possibilità di trovare cose sorprendenti e che ci facciano imparare ed essere migliori. E questo è un tema di dibattito su Facebook, è una grande opportunità per piattaforme che per adesso non ci sono e che possono nascere e in futuro addirittura soppiantare Facebook. Quindi ci può essere spazio per chi vuole emulare Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, che ha fatto miliardi in dollari attraverso la quotazione della sua società. Ecco, tra l'altro fare business su Facebook dal punto di vista finanziario per ora non è tanto una realtà. Facebook è stata quotata in borsa il 18 maggio a $38, adesso chi l'avesse comprata a quel prezzo dovrebbe accontentarsi di venderla a $21, quasi dimezzato il valore di mercato di Facebook, forse per tanti motivi, ma fare business su Facebook non è solo acquistare le azioni di Facebook, è anche utilizzare Facebook per fare business, e per questo mi rivolgo a Luca Conti e rivolgo la stessa domanda: ma Facebook è veramente uno strumento che può diventare uno strumento, diciamo, di normale uso anche per fare business, e quindi sarà uno strumento che si consoliderà, uno strumento di social network di questo tipo? Luca Conti. Buongiorno, penso di sì, penso di poter rispondere molto chiaramente sì, per una ragione ben precisa che ha già anticipato Enrico Pagliarini. Oggi su 27 milioni circa di italiani che si collegano a internet, 22 si collegano a Facebook almeno una volta al mese, e di questi 22 più della metà lo fanno tutti i giorni, e su Facebook passano tantissimo tempo. Facebook è il leader non soltanto come sito più visitato, ma anche come sito dove le persone passano mediamente più tempo, più di 7 ore al mese, quando i concorrenti da Google in giù hanno da 2 ore e mezza a 2 ore se non meno di media al mese per utente. Quindi per un'azienda che vuole fare attività di promozione, di comunicazione, di marketing, di relazione con i propri clienti, potenziali clienti, nell'ambito dei social network, quindi in un ambito dove non si fa pubblicità vera e propria, ma si cerca di coinvolgere l'utente chiedendo le sue opinioni, sviluppando dei prodotti insieme o migliorando i prodotti in base ai commenti di chi li usa. Ecco, se un'azienda vuole fare questo, oggi Facebook è il luogo dove farlo. E visti i numeri, non credo che Facebook subirà una diaspora tale da ridurlo al numero due. Oggi in Italia, come diceva Pagliarini, Twitter di fatto ha la palma del secondo posto, e da scendere da 22 a 4 milioni ce ne passa. Ecco, abbiamo qualche problema, l'audio non è molto buono con Luca Conti, proviamo magari a richiamarlo, a vedere se possiamo avere una qualità migliore di comunicazione. Allora vorrei rivolgere a Luca De Biasi una domanda che viene subito immediatamente dai nostri messaggi SMS: se sono questi fenomeni sono tutti passeggeri, si parla di Second Life, si parla di MySpace, cioè sono in realtà sono delle, degli strumenti che sono, avevano, sembravano che negli anni scorsi fossero sulla cresta dell'onda e poi rapidamente sono scomparsi, quindi c'è un ascoltatore che dice ma anche Facebook farà la stessa fine. Luca De Biase. Ma io sono aperto a questa ipotesi, nel senso che sono convinto che l'idea del social network resterà. Noi siamo in un'epoca in cui è finita la centralità della televisione, organizzata intorno a un oligopolio di catene. Questo ecosistema mediatico fatto a gerarchia con pochissime centrali che parlano e tantissime persone che ascoltano è una geografia dei media che è cambiata e finita. Quello che è cambiato ed è finito è che adesso il pubblico attivo è parte integrante del sistema dei media anche dal punto di vista della produzione di informazione, della trasmissione di informazione, della influenza sulla importanza, la rilevanza di quello che ci si scambia. Questo tipo di cambiamento strutturale resterà senz'altro. Ecco, ma è un cambiamento, scusa Luca De Biase, che coinvolge anche i classici strumenti del comunicare, quelli che McLuhan appunto chiamava gli strumenti del comunicare, cioè questi social network prenderanno il posto dei giornali, della televisione, speriamo non della radio. La radio tu lo hai dimostrato iniziando la tua trasmissione con una frase importante. Hai detto i nostri SMS, i nostri lettori, i nostri ascoltatori che ci scrivono ci stimolano a migliorare e noi non possiamo che tentare di migliorare costantemente. Questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento che è diventato normale adesso, pur non essendo di tutti, è senz'altro più diffuso adesso che ci siamo resi conto nei giornali, nelle radio, nelle televisioni che il pubblico conta non solo come numeri di ascoltatori ma anche e soprattutto come generatore della rilevanza, della riconoscimento della qualità di quello che facciamo. Quindi in questa epoca noi non possiamo che accogliere e servire il pubblico che pensa e che agisce e che interagisce con i sistemi mediatici. Questo cambia anche la radio, cambia anche i giornali, cambia anche la televisione. Che questo significhi che quelle modalità siano destinate a scomparire, secondo me è sbagliato. La radio è stata modificata dall'impatto della televisione, ma non è certo scomparsa, è diventata lo strumento fondamentale mediatico di quelli che sono in macchina o di altre ergonomie di accesso. E in questo riposizionamento ha trovato una sua nuova vita. Ecco, mi sembra proprio importante sottolineare questo, cioè che il mezzo di comunicazione non sarà più un mezzo di comunicazione unilaterale, qualcuno che parla e qualcun altro che ascolta. Questi nuovi strumenti sono qualcosa che aiuta il fatto che ci sia una comunicazione interattiva, una comunicazione in cui anche l'ascoltatore, anche il lettore, anche chi cerca la comunicazione poi può diventare protagonista, può dire la sua, può essere parte di questo sistema. Ecco, questo è importante anche perché appunto fare il giornalista, fare i giornali, fare la radio, fare la televisione deve tener conto di questo. Non si possono più fare i giornali come si facevano nel tempo antico, perché appunto c'è la necessità, quasi la voglia di una comunicazione che sia dalle due parti. Pagliarini può smentirmi. Sì, sicuramente sarà così. Io penso che le cose cambieranno moltissimo nei prossimi anni. Il tutto in rapporto alla disponibilità che noi avremo di strumenti come non solo i computer, ma gli smartphone, i tablet e la disponibilità di rete, di banda. Se noi immaginiamo, adesso io sono un grande sostenitore della radio, è la mia passione, la mia vita, però penso che anche la radio subirà dei cambiamenti incredibili nei prossimi anni, parlo dei prossimi 5, 10, 20 anni. Pensiamo alle automobili. Oggi il 70% degli ascoltatori ci ascolta in automobile, in tutto il mondo grosso modo è così. Negli Stati Uniti stanno già nascendo delle automobili con delle console che si collegano ad internet. Se io ho una console che si collega ad internet e posso scaricare quando voglio musica, programmi in podcast, quindi anche programmi di Radio 24 in podcast, sicuramente la fruizione di questi mezzi cambierà moltissimo e magari il nostro programma viene ascoltato a mezzanotte in base agli interessi e ai desideri delle persone. Ecco, io vorrei chiudere questa prima parte, poi immediatamente nella seconda parte parleremo con Luigi Ballerini dei problemi educativi con Luca Conti, sul tema proprio della comunicazione e dell'informazione. Questi nuovi mezzi possono essere anche degli strumenti per seguire degli avvenimenti. Ecco, so che Luca Conti sta seguendo per esempio come portare il meeting di Rimini che si svolgerà la settimana prossima attraverso questi strumenti di comunicazione a chi non può andarci. Ecco, possono sostituire i mezzi tradizionali, ma sostituirli a loro modo, cioè seguendoli a loro modo. E qual è il modo con cui Facebook o Twitter seguono un avvenimento che si svolge da altre parti? Può essere le Olimpiadi, può essere appunto il meeting di Rimini. Luca Conti. Ma non credo che sia una sostituzione, ma sia un complemento e un arricchimento, un po' perché i media tradizionali hanno degli spazi limitati, i giornali hanno pagine limitate, i telegiornali anche meno spazio, quindi poter seguire un evento anche attraverso Facebook e Twitter significa innanzitutto seguirlo dal punto di vista delle persone che partecipano, quindi un dietro le quinte, qualcosa che non necessariamente è una notizia da prima pagina, ma che arricchisce la partecipazione a un evento, sia di chi sta a casa e quindi lo usa come in qualche modo surrogato della presenza non potendo partecipare, sia per chi partecipa che quindi può dare un suo contributo. In genere il modo in cui questi eventi poi finiscono e rimbalzano su Twitter in particolare è grazie all'hashtag, cioè la parola chiave preceduta dal simbolo del cancelletto. Nel caso del meeting di Rimini che citava è cancelletto meeting, facendo una ricerca con questa parola chiave durante i giorni dell'evento sarà possibile vedere foto, contributi, link alle discussioni che stanno avvenendo in tempo reale, quindi un ottimo complemento. È stato un successo anche per le Olimpiadi di Londra che sono appena finite. Quindi dalla chiocciolina al cancelletto dobbiamo imparare questi strumenti del comunicare, e tra poco con Luigi Ballerini parleremo di educazione, ma adesso linea alla pubblicità. 9 in punto. Rieccoci con 9 in punto, stiamo parlando di Facebook, di Twitter, di questi nuovi strumenti del comunicare, strumenti di comunicazione, strumenti di social network, di partecipazione, di modo di essere all'interno di una comunità più o meno grande che magari ci scegliamo noi. Un messaggio SMS ci scrive dicendo: il limite di Facebook è che non si possono fare discussioni lunghe e articolate perché i topics scorrono via subito e magari quello che mettiamo noi viene subito sostituito da qualcuno che ci parla della canzoncina del nipote o della ricetta della nonna, cose altrettanto forse importanti. E quindi ecco, strumenti del comunicare che hanno tanti limiti, hanno tante potenzialità e certamente vanno anche usati bene. Luigi Ballerini, buongiorno. Buongiorno. Psicanalista, autore del libro E adesso cosa faccio? Ripensare al rapporto tra genitori e figli. Ecco, forse nel campo educativo i problemi sono molti. Questi nuovi strumenti sono a disposizione dei giovani. Ormai anche i piccoli bambini usano gli iPhone i tablet, i telefoni che hanno la possibilità di essere collegati, di essere essere appunto di diventare anche degli strumenti di comunicazione di qualunque marca ovviamente, e li usano magari in maniera più rapida, più facile di quanto di quelli meno giovani, diversamente giovani, riescono a fare. Ma c'è un problema, perché questi mezzi danno anche accesso a un mondo, a una giungla che può riservare anche dei rischi. Come avvicinare allora i bambini, i giovani, gli adolescenti a questo mondo? Luigi Ballerini. Ma diciamo che ci pensano da sé ad avvicinarsi, per cui semmai la questione è come aiutarli, come sostenerli, perché incontrando molti genitori vedo che è come se ci fossero due estremi. Ci sono delle posizioni anacronistiche che dicono fino a 18 anni non se ne parla, per cui un controllo assoluto, posto che sia possibile, oppure vedo ragazzi, ma anche bambini, che sono abbandonati da soli in rete. Ora, entrambe queste posizioni in qualche modo non sono efficaci dal punto di vista educativo, anche perché non tengono conto del perché ad un ragazzo piace così tanto stare su Facebook, perché di fatto questo è un dato: ai ragazzi piace essere su Facebook, e spesso, diciamo così, gli piace così tanto che ci stanno troppo. Quindi secondo me la prima questione che un genitore dovrebbe porsi, o uno che ha a che fare con un giovane, è ma come mai ci sta così tanto? Perché finché noi non capiamo il bisogno che soddisfa un mezzo come questo, faremo fatica poi a capire qual è la sua potenzialità, quali sono i suoi rischi e anche quali sono eventualmente, non necessariamente delle alternative, ma un qualcosa di più, non necessariamente di diverso, che possono aprire l'orizzonte. Perché di fatto un segnale, secondo me, che dovrebbe iniziare a insospettirci, persino a preoccuparci, è quando questa che noi chiamiamo realtà virtuale inizia a prendere troppo spazio. Per cui un progressivo ritiro dalla vita sociale, un progressivo ritiro dagli amici veri, per una vita che si svolge sul computer. Io quando incontro i ragazzi su questo mi colpisce come partiamo subito da una constatazione di un'ambiguità, che Facebook chiama amici i contatti. E uno potrebbe dire è solo una questione di parole, ma è tutta una questione di parole. Allora la domanda che io pongo ai ragazzi direttamente è: chi è tuo amico? Chi è l'amico? Ecco, sì, il rischio di avere, di cercare degli amici virtuali che poi sono qualcosa di diverso quando poi diventano amici reali, con tutti i rischi del caso. Abbiamo molti episodi di cronaca di persone, di giovani che magari si sono incontrati in buona fede con persone che poi dopo si sono dimostrate tutt'altro e hanno certamente commesso qualcosa di non lecito e di pericoloso. Ecco, a questo rischio vanno educati i giovani. A questo rischio vanno educati mostrando loro un paradosso che quando viene rivelato, li vedo sgranare gli occhi, è che noi sappiamo che c'è un limite di età per entrare in Facebook, per cui un ragazzino di prima media o di seconda media o più piccolo, per essere su Facebook deve avere mentito sulla sua età. Per cui in qualche modo ha dato un'identità virtuale falsa, quantomeno dal punto di vista anagrafico dell'età. C'è questo paradosso per cui io per entrare, se faccio le medie, se sono piccolo, se faccio addirittura magari gli ultimi anni della scuola primaria, ho dato una falsa identità, quindi ho dichiarato un dato falso di me, e c'è questa invece ingenuità paradossale nel prendere per buono quello che mi arriva. Perché poi quando chiedo loro: ma come fai a sapere che quel Davide che ha 17 anni e ha una bella foto, no, di un ragazzino sveglio, magari un po' carino, sia davvero Davide? E alla ragazza che pongo la domanda spesso viene da rispondere: ma vedo la foto. No? Per cui c'è una sorta di ingenuità che non tiene conto del fatto che le identità virtuali possono essere false, al quale noi dobbiamo però rispondere con delle indicazioni. suggerimenti e anche degli avvertimenti ai più giovani, per cui non possiamo prendere necessariamente per buono quello che viviamo. Ma al di là poi dal rischio che lei ha ben identificato, c'è proprio una questione più pregnante secondo me, ossia chi è il mio amico? Perché il rischio che io faccio collezione di amici o di contatti come di figurine. Ma ecco, quindi bisogna educare all'amicizia, in fondo, educare al fatto che sicuramente questi sono strumenti e devono restare strumenti: l'amicizia, il rapporto personale, la vicinanza, la solidarietà sono qualcosa di diverso, che possono utilizzare questi strumenti, ma devono andare avanti, devono andare oltre. Ma certo che possono utilizzarli, perché l'importante è che esistano amici di carne, come li chiamo io, quindi gli amici veri, gli amici che posso toccare, con cui posso dare un calcio a pallone o andare in giro a far shopping o andare al cinema. Poi, se esistono, Facebook è un mezzo straordinario per connetterci. L'esempio che mi piace fare, perché è un esempio che prendo proprio dalla realtà, è che se a me, che sono ancora a scuola, sono uno studente, alle 8 di sera viene in mente che domattina all'intervallo facciamo una sfida a calcio tra la terza A e la terza B, in 3 minuti lo metto su Facebook e ho già fatto la squadra. Allora, se io ho degli amici veri, degli amici di carne, il mezzo tecnologico sarà al servizio della nostra amicizia. Il vero problema, il guaio, è quando invece diventa sostitutivo o alternativo. E allora i miei amici sono solo quelli lì, quindi per stare con loro dovrò ridurre progressivamente il mio spazio di reale per entrare e passare la giornata davanti al computer, e certe volte c'è un po' di miopia da parte dei genitori, perché li sento dire: guarda, è tranquillo, sono contento, non esce. L'idea che sia nella sua camera con un computer davanti, l'idea che sia protetto dai mali del mondo, è anche questo un paradosso, perché in realtà internet è davvero un'autostrada per cui in casa c'entra di tutto, e soprattutto con i piccoli dobbiamo stare attenti a filtrarlo o a dare dei criteri di giudizio per cui poi loro possano valutare da soli. Quindi una grande attenzione, criteri di giudizio, cercare di seguirli, di non appunto essere oppressivi nel bloccare o nel limitare, che poi dopo il proibizionismo anche in questi casi può avere degli effetti contrari. Enrico Pagliarini, volevi aggiungere qualcosa? Sì, c'è un problema e magari anche uno stimolo per il nostro ospite, che molti genitori, io presumo, ma insomma i dati poi ci dimostrano questo, non sanno nemmeno che cos'è Facebook. Quindi è difficile poi educare dei ragazzi ad una cosa che non si conosce. Quindi, e comunque in generale, educare i genitori a Facebook. Questo infatti è uno dei problemi. Ma comunque in generale valgono con... perché a volte si tende a denigrare le nuove tecnologie perché creano dei problemi. È vero, certo, come dire, se non ci fossero le automobili non ci si ucciderebbe per strada, questo è vero, però l'educazione vale qui come vale per tante altre cose, un po' come quando uno risponde al telefono mentre stiamo chiacchierando. Se una persona è educata risponde dopo. Prima viene la persona fisica, il nostro dialogo, e poi il resto. Purtroppo non succede, sì, non succede così, vero, infatti. Nella... No, però per dire che, come dire, viene prima un'educazione di base, e quindi poi nel rapporto tra genitori l'educazione del genitore è fondamentale. Sentiamo un ascoltatore, Cecilia da Treviso, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Io volevo porre una domanda riallacciandomi alla questione della privacy a cui si è accennato in apertura di trasmissione, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di controllo delle informazioni che vengono immesse all'interno del proprio profilo Facebook nel momento in cui si decide di uscire da questa piattaforma. Mi spiego. Io creo un mio profilo Facebook, inserisco documenti, fotografie, diciamo tutta una serie di materiali che vengono chiaramente immessi in questo network. A un certo punto io mi stanco, decido che Facebook non fa più per me e rimuovo il mio profilo. C'è una possibilità di, come posso dire, effettiva sparizione non solo del mio profilo, ma anche di tutto ciò che io ho immesso, anche come appunto fotografie, documenti, certo, dati personali. Ecco, si può, in sintesi, sparire effettivamente da Facebook? Grazie. Grazie, grazie mille, Enrico Pagliarini. Direi di no, nel senso che da quello che so io, dico da quello che ne so io, perché c'è stato un accordo con l'antitrust americano proprio sul tema della privacy la settimana scorsa, quindi bisognerà vedere poi come questo nuovo accordo verrà implementato, ma ci si può cancellare, si può sparire, ma tutto quello che si è messo sulla rete rimane sulla rete. Forse Luca, i nostri Luca possono aggiungere qualche Luca cosa. Conti, su questo fronte è possibile? Quali garanzie alla privacy ci sono su questi sistemi, su questi strumenti? Ma per rispondere alla domanda dell'ascoltatrice, credo che la risposta sia sì, perché Facebook fino a qualche anno fa permetteva soltanto di disattivare il profilo, cioè io pensavo di cancellarmi, poi mi riscrivevo con la stessa email e ritornava fuori tutto quello che avevo caricato fino a quel momento. Questo è ancora possibile farlo, si chiama disattivare il profilo. Posso anche fare invece la cancellazione totale. Facebook mi dà 14 giorni di tempo per ripensarci, superati i quali tutto quello che io ho caricato sparisce, quindi anche dal suo server, dal suo computer viene cancellato. Rispetto alla privacy in generale, io vorrei andare un po' controcorrente e dire che Facebook, per tutti, nonostante tutti i limiti che abbia, è il social network che permette di gestire la privacy nel modo migliore e più puntuale possibile, perché io posso, a differenza di un blog, di Twitter o di qualsiasi altro strumento, posso decidere ogni singolo contenuto che pubblico, chi può vederlo e chi no. Tra i miei amici, gruppi di amici, posso escludere alcune persone e farlo vedere ad altre. Quindi ho un controllo totale. Tutto sta da parte degli utenti a essere consapevoli di usare Facebook correttamente, secondo i loro desideri, e soprattutto di aver impostato la privacy nel modo che preferiscono. Ecco, ma al di là di Facebook, Luca Conti, la rete è comunque qualcosa in cui si entra, poi i nostri dati viaggiano e diciamo ne perdiamo anche contezza, la possibilità questo. Su altri fronti, con altri strumenti, magari la privacy non è altrettanto garantita. Questo è un altro problema che da parte mia gode di molta attenzione, quello del diritto all'oblio digitale. Quindi io personalmente sto molto attento a quello che pubblico in rete e sto molto attento quando devo usare un nuovo servizio e soprattutto se ho la possibilità di farlo e un servizio ho deciso di non usarlo più, cancello definitivamente il profilo in maniera tale che i dati non siano più accessibili da parte di nessuno. C'è chi ne ha scritto anche un libro e sono convinto che da parte di chi sviluppa tecnologia questo sia un tema da tenere in forte considerazione. Sì, anche perché c'è un problema di privacy appunto su Facebook per le nostre idee o per le nostre foto, ma c'è anche un problema, direi al di là della privacy, di sicurezza per le transazioni che noi facciamo su internet, che possono essere appunto le transazioni finanziarie, la gestione dei conti correnti, gli acquisti via internet, il pagamento con carte di credito. Ecco, Enrico Pagliarini, su questo fronte la sicurezza informatica è qualcosa, certo, assoluta, la sicurezza assoluta non esiste, però siamo vicini ad avere una confortante sicurezza. Sì, direi che i dati ci confortano sul fatto che tutto quello che avviene, almeno sul fronte dei pagamenti, è sicuro e sicuramente lo è molto di più che nella realtà di tutti i giorni. Io ieri ho fatto un pezzo di autostrada e tutte le volte che esco dall'autostrada mi stupisco di quante persone utilizzino ancora il denaro contante. non è sicuro ed è molto più sicuro il denaro elettronico. Su questo non ci sono dubbi. Ecco, è molto più sicuro, pensiamo ai costi che abbiamo anche per la sorveglianza delle banche. Fanno tenerezza queste guardie giurate che passano il tempo di fronte a una banca. Se ci fosse solo il denaro elettronico non ci sarebbe bisogno. Ma pensiamo alle rapine ai supermercati e ai distributori di benzina, eccetera. Non esisterebbero quasi più. Ci sarebbero le rapine digitali che ci sono, che vanno combattute e su cui il crimine sta continuando a crescere. Almeno non ci sono morti e feriti, anche se sono altrettanto gravi. Ecco, abbiamo parlato di autostrade, lasciamo la linea alle notizie sul traffico. 9 in punto. Rieccoci qua per concludere il nostro viaggio all'interno dei social network, all'interno degli nuovi strumenti di comunicazione, vedendo un po' quali sono i rischi e le opportunità, soprattutto le opportunità di questi strumenti, quale sarà l'evoluzione. Ci sono molte domande e direi che in sintesi ci sono un paio di interventi da parte dei nostri ascoltatori che dicono se lo conosci lo eviti, nel senso che questi social network fanno perdere un sacco di tempo, è meglio andare al cinema, leggersi un libro, andare a cena con gli amici e fare altre cose che non perdere tempo a chattare attorno a questi computer. Ecco, mi piacerebbe sapere se queste persone però lo hanno provato o non dicono questo così perché sono scettici a prescindere. Comunque resta il fatto che sono strumenti da cui non lasciarsi prendere la mano, che bisogna utilizzare magari in modica quantità perché non diventino appunto una droga quotidiana, direi soprattutto un alibi a non fare altre cose. Sono cose che si devono aggiungere nella nostra vita quotidiana. E vorrei chiedere a Luigi Ballerini, parlavamo prima della necessità di educare soprattutto i genitori, chi ha una certa età, a questi nuovi strumenti. Ecco, forse c'è una certa difficoltà ad entrare nella logica diciamo più moderna di utilizzare questi strumenti da parte dei giovani, da parte di chi è meno giovane. Luigi Ballerini. Ma in realtà quello che è cambiato è lo strumento. Ma siccome l'uomo non cambia e il desiderio dell'uomo non cambia, ancora una volta dobbiamo chiederci a cosa serve Facebook ai più giovani, ai ragazzi. Io ricordo, questo ricordo personale, che non c'era certamente Facebook, ma io facevo lunghissime telefonate la sera con i miei amici. Poi a un certo punto, a quei tempi, la vecchia SIP aveva messo la TUT, la tariffa urbana a tempo, sono arrivati gli scatti e lì sono iniziati i problemi, no? Nel senso, era il periodo dei lucchetti al telefono, per dire che il mio desiderio di ragazzo era quello di restare in contatto con i miei amici, di allargare le mura della casa, superare i limiti fisici, lo stare con i miei coetanei. Il telefono allora, poi è diventato Messenger, adesso abbiamo Facebook, avremo altri mezzi in futuro, ma ciò che soddisfano questi mezzi, questi strumenti, è proprio il desiderio di restare in contatto, di condividere e ultimamente di essere felice dei ragazzi. Allora, io ho bisogno di essere certo che c'è questo desiderio nel ragazzo, perché se colgo il desiderio del più giovane, che poi è il mio stesso, che magari a volte ho subito, potrò capire perché usa quello strumento che gli permette di avere questa molteplicità di contatti e potrò aiutarlo dal punto di vista educativo a integrarlo in una vita più ricca, dove appunto Facebook o i social network o la rete si mette al servizio della vita reale. Per cui in realtà la prima questione che un genitore deve avere in mente, o un educatore o chi ha a che fare con i ragazzi, è qual è il desiderio del suo cuore. Rispetto a questo, cogliere come lo strumento che per il tempo attuale ha in mano e a quel punto conoscerlo. perché è vero che abbiamo bisogno di conoscerlo, perché io che conosco bene Facebook non ci sto lontano, nel senso personalmente lo trovo uno strumento sia di lavoro sia anche di contatto estremamente interessante, e spesso mi ha permesso di restare in contatto con persone che probabilmente avrei perso, no, nel mio ritmo. Certamente, continuare a considerare queste realtà come strumenti, come occasioni, come opportunità, come qualcosa che però non devono farci perdere di vista qual è la finalità della nostra vita, che non è di finire e restare su Facebook. Esatto, deve esserci un mondo, deve esserci il mondo. E poi Facebook è uno strumento eccezionale che ci permette di, in questo momento storico, di essere in contatto con questo mondo. Ma il guaio è quando il mio mondo diventa solo quello. Ecco, abbiamo in linea Andrea Maggiolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ideatore del progetto Micronarrativa, la vita in 140 caratteri, un modo per raccontare la storia su Twitter. Qual è, ci vuoi spiegare questo progetto, che cosa è, quali obiettivi ha? Sì, buongiorno a tutti. Io vi racconto in due parole questa avventura di questo account Twitter che si chiama Micronarrativa, che diciamo nasce per raccontare nel breve spazio di 140 caratteri, che è il limite massimo di caratteri che si possono utilizzare per un aggiornamento di stato su Twitter, far diventare questi 140 caratteri un racconto breve, e quindi insomma l'obiettivo sarebbe quello di fare in modo che le reti sociali siano non solo un canale per promuovere magari i propri testi, le proprie cose scritte altrove, ma anche uno stimolo per, diciamo, per inventare qualcosa di nuovo e creato ad hoc per Twitter. Questo piccolo progetto è nato nel 2009 e oramai sono centinaia quindi racconti che sono stati scritti sia da me sia dai lettori, cioè ogni giorno comunque oramai sono quasi 7.000 le persone che seguono questo progetto tutti i giorni, che quindi appassionati di scrittura creativa e non solo, che si vogliono cimentare in questa piccola, diciamo, sfida e provano a scrivere anche loro dei racconti in 140 caratteri. Ecco, ma non è una camicia di forza mettere le cose in 140 caratteri? No, anzi, aiuta a sviluppare la sintesi, che non è mai un brutto esercizio, secondo me. E questo anche perché inserendomi nel discorso che avete fatto fino ad ora, secondo me la differenza che si può sottolineare fra i due, diciamo, grossi social network italiani che diffusi in Italia, che sono Facebook e Twitter, è che Facebook ha dei confini molto ben delimitati, tende a essere un mondo molto chiuso, mentre Twitter, secondo me, è molto più malleabile, molto più attento alle richieste degli utenti, tende a essere un mondo più aperto, quindi molto pronto a tutte le nuove sollecitazioni che arrivano dagli utenti, dai lettori. Ecco, ma Twitter non è un mezzo superficiale, un mezzo appunto che nella sua brevità è un po' come una foglia al vento, passa e poi va, non si vede più, cioè è talmente affollato Twitter che è difficile legarsi a qualcosa, rendere... Beh, cioè, dica. Sì, sì, il rischio è evidente. Diciamo che a volte forse la leggerezza non è per forza un elemento negativo, insomma, si possono fare cose anche che non hanno l'obiettivo o la pretesa di restare nel tempo, però cercare di farle bene, con precisione, con passione, è quello che ho sperimentato, è che la cosa piace, la cosa ha sempre un suo seguito. Quindi dare spazio alla creatività anche su questi mezzi, la creatività è qualcosa di connaturato all'uomo, e quindi cercare anche di fare della narrazione attraverso Facebook e soprattutto Twitter con questi 140 caratteri. Ecco, io volevo concludere prendendo un po' una provocazione che ci viene da un SMS che dice che questi strumenti danno un enorme potere a chi li gestisce. Ecco, però chi li gestisce in fondo è ciascuno di noi, Enrico Pagliarini. No, penso che l'ascoltatore si riferisca alle aziende che possono sicuramente ricavare un sacco di dati potremmo dire anonimi, aggregati in grande massa, ma sicuramente possono studiare i comportamenti delle persone anche per il marketing, per la pubblicità, per i prodotti, ma sappiamo benissimo che le intelligence di tutto il mondo hanno gli occhi puntati, hanno dei bocchettoni aperti su Facebook e su tutti gli altri social network. Quindi un potere esiste, sì, di sì, chi ha questi, però ecco, noi possiamo comunque difenderci. Possiamo difenderci stando attenti a quello che pubblichiamo, oppure quando decidiamo di non esistere più, disattivarci, anche se devo dire che questo concetto penso che sia un concetto che dobbiamo un po' dimenticarci, perché sì, possiamo toglierci da un social network, ma in qualche modo ormai la vita si è trasformata talmente tanto, se poi noi pensiamo ai ragazzi di oggi, quindi pensiamo alle generazioni che diventeranno adulte tra qualche anno, penso che questo concetto non potrà più essere vero. In qualche modo in rete le nostre tracce esistono, esisteranno, e quindi la cosa più importante penso sia una attenta gestione di quello che noi facciamo. Essere noi veramente protagonisti della rete, avere cogliere le opportunità, difendersi dai rischi, ma le opportunità sono molto molto maggiori dei rischi. Per concludere, Luca Conti, le opportunità sono maggiori dei rischi? Assolutamente sì, tant'è che molte persone lo usano da tanti anni ormai e continuano a usarlo. Vorrei chiudere con una parola chiave che a mio avviso è quella fondamentale quando parliamo di questi temi, che è consapevolezza. Nel momento in cui sappiamo quali sono i rischi, quali sono le opportunità e come usare gli strumenti, siamo noi ad avere il controllo. Luca De Biase, su questa stessa domanda, sono più le opportunità o più i rischi? Prego. Le opportunità sono sempre di più se le vediamo e se le cogliamo. La storia va avanti, noi abbiamo un momento in cui stiamo digerendo una enorme quantità di novità. È difficile che una cultura possa comprendere e gestire con consapevolezza una quantità così grande di novità come quelle che abbiamo vissuto fino adesso, e il segreto è scoprire all'interno di tutte queste novità la vera innovazione, quello che resterà, quello che cambierà il mondo. Sono cose che stanno succedendo e che stanno dando possibilità a tutti noi. Se non impariamo a vederle seriamente, non le coglieremo. Le opportunità si colgono, non esistono di per sé. Ecco, grandi opportunità, un mondo della rete che è certamente vasto, che offre delle grandi possibilità, la possibilità di connessione a livello globale, la facilità anche, la gratuità stessa, fatto salvo appunto i costi della connessione, la gratuità stessa di questi strumenti sono qualcosa che sicuramente rendono possibili nuove opportunità per le persone, rendono possibili delle realtà, dei contatti, delle informazioni che prima non erano appunto possibili. Io ringrazio Luca De Biase, Luigi Ballerini, Luca Conti, Andrea Maggiolo di essere stati con noi. E c'è un'ultima domanda: qual è la vera finalità della vita? La finalità della vita è quella che noi vogliamo avere. Grazie a tutti e l'appuntamento è per domani. Radio 24, la passione si sente.